Europa 24. Buongiorno da Maria Piera Ceci, si apre una settimana importante a livello europeo. Mercoledì le previsioni d'autunno della Commissione, oggi l'Eurogruppo. La legge di stabilità non è stata ancora scritta, lo andava ripetendo Matteo Renzi a chi gli faceva notare che a Bruxelles non erano del tutto soddisfatti dell'impianto della manovra. Il 15 ottobre si avvicina e i piani di bilancio dovranno arrivare sul tavolo della Commissione. Molto probabile che dell'argomento si parli anche durante l'Eurogruppo, nonostante non sia in agenda. Forti le pressioni su Francia e Italia, gli unici ad aver annunciato piani non in linea con le indicazioni della Commissione europea. Parigi è quasi all'angolo. Il presidente dell'Eurogruppo, Dijsselbloem, ha giudicato insufficienti i piani di bilancio francesi e ha invitato il governo a rimettere mano alla legge prima di farla arrivare a Bruxelles. Ma anche Roma non sta messa bene. Padoan assicura che il rapporto deficit-PIL resterà sotto il 3%, ma l'annuncio del rinvio al 2017 del pareggio di bilancio e il nuovo aumento del debito pubblico non sono ben visti in Europa, dove almeno sul debito vorrebbero vedere progressi. Da qui la richiesta di un taglio strutturale pari almeno allo 0,25%. L'Italia risponde con le riforme messe in campo e riportando l'attenzione sulla congiuntura economica negativa. E poi, afferma il ministro dell'economia, le voci di bilancio devono essere orientate alla crescita. Tradotto, i soldi che ci saranno andranno a tagliare le tasse, non il debito. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi a Roma la conferenza europea della gioventù, la sta seguendo per noi la nostra Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno. Una 3 giorni dedicata a un obiettivo principale: migliorare la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica, nazionale e comunitaria. Il deludente risultato in termini di votanti alle ultime elezioni europee ha fatto suonare un allarme, avvertito la commissaria europea all'istruzione, cultura e gioventù Androulla Vassili. Occorre dunque sostenere i giovani affinché svolgano un ruolo attivo. Ma quali gli strumenti per favorire questa partecipazione indicati dagli stessi giovani in questa conferenza? I social media, il volontariato, le campagne, l'iscrizione ai partiti, ma anche l'accesso al lavoro, i sistemi di welfare e credito. Vedere i giovani non più come un problema ma come una risorsa, dice la parlamentare europea Silvia Costa, presidente della Commissione Cultura e Politiche Giovanili del Parlamento Europeo, mentre secondo il ministro del Lavoro Poretti occorre ridurre le rendite di posizione per moltiplicare le opportunità di accesso al mondo del lavoro. Qui a Roma ci sono rappresentanti istituzionali, ma ci sono anche delegati delle associazioni giovanili di 28 paesi, tra questi abbiamo sentito il portavoce del Forum Nazionale Giovani, Giuseppe Failla. Lanceremo da questa conferenza quella che sarà una consultazione, quindi un momento di vero dialogo tra i giovani, tutti, non soltanto chi li rappresenta nelle forme più organizzate e le istituzioni. Quello che ci aspettiamo è che ci sia un lavoro proficuo e capace, ecco, in qualche modo di trovare gli strumenti giusti per rendere possibile questa sinergia che deve essere sempre maggiore tra istituzioni e giovani. E grazie alla nostra Alessandra Schepisi. Doppi incarichi e lavori esterni al Parlamento europeo, ecco cosa mostrano i dati del rapporto Transparency International. 398 euro parlamentari su 751 si mettono in tasca dai 5,8 ai 18,3 milioni di euro in un anno, oltre al loro salario come deputati. Ma da dove vengono questi soldi? Consulenze, poltrone in aziende pubbliche ed enti privati. 110 onorevoli precisano che si tratta di lavori regolarmente retribuiti, altri invece dichiarano compensi saltuari. Alcuni infine classificano la loro attività come non retribuita. Costituiscono il 53% del Parlamento i deputati che percepiscono compensi al di fuori dell'incarico europeo, e c'è chi ammette di guadagnare di più fuori rispetto a dentro. Eppure il totale annuale dei loro salari si attesterebbe sui 72,3 milioni di euro, una cifra di tutto rispetto. Natalie Griesbeck, liberaldemocratica di 58 anni, ammette tranquillamente di svolgere 68 attività esterne, alcune retribuite, altre no, e chissà quante volte deve percorrere il tragitto da casa sua a Metz a Bruxelles, sede del Parlamento. Solo 16 impieghi per Nicola Caputo, del PD, che dice di farlo in piena consapevolezza del regolamento europeo. Uno solo è retribuito, quello come consigliere della regione Campania, per il quale percepisce un compenso di più di 10.000 euro lordi al mese. Eppure tutto questo non costituisce reato, secondo il codice etico dei deputati, che consente gli incarichi, purché dichiarati in modo trasparente. Ci si chiede però quanto questi incarichi influiscano in termini di tempo ed energia sul lavoro di parlamentare. Nel rapporto, 7 eurodeputati si sono dichiarati nullatenenti, fra questi la grillina Giulia Moi e Daniele Viotti del PD.